giovedì 19 gennaio e le scelte dei quotidiani sono sostanzialmente due. C'è chi sceglie il tema delle liberalizzazioni, domani atteso il decreto con il Consiglio dei Ministri, e la vicenda sempre del Concordia. I titoli per il Sole 24 Ore: energia, polizze, pedaggi, ecco cosa cambia. Per il Corriere della Sera: gas e RC Auto, il piano del governo. La Stampa: farmacie e professioni, si cambia. Il Giornale: gas, benzina, RC Auto, il piano è pronto. Per il Messaggero: liberalizzazioni, ecco il decreto. Repubblica invece punta sul lavoro: lavoro, ecco il piano Fornero. Il Fatto Quotidiano invece punta sulla situazione di possibili incidenti, disordine pubblico, il Viminale in allarme dopo la rivolta dei tassisti e i forconi che bloccano i tiri in Sicilia. Le aperture invece sulla vicenda Costa: Costa, gli altri codardi, questo è il titolo di apertura di Libero, troppo comodo scaricare ogni colpa sul capitano, per il Secolo XIX relitto si muove incubo al Giglio, mentre Unità: capitalismo in crisi, se ne può parlare anche in Italia, questo è il titolo di apertura, mentre Il Manifesto: la banda del buco, ha preso un aspetto del decreto liberalizzazioni sulle trivellazioni, il territorio consegnato alle multinazionali, questo è il titolo di apertura del Manifesto. Allora, da cosa partiamo? Partiamo da un bel condono? Un bel condono nuovo, arrivato, fresco fresco. È vero, ormai non è una novità, è una prassi. Ogni anno nel decreto mille proroghe i partiti si fanno un bel mini maxi condono. Un condono su che cosa? Sui manifesti abusivi. Cioè praticamente funziona così: quando ci sono le campagne elettorali i partiti imbrattano, sporcano, mettono i manifesti sulle nostre città, ci invadono con dei manifesti anche francamente insopportabili, li mettono dovunque, sui cestini dell'immondizia, sui muri, per terra. Poi tanto arriva il condono, cioè arrivano le multe da parte dei comuni, ma quando c'è il mille proroghe arriva il condono. Ogni anno è così, negli ultimi 6 anni c'è stato questo condono. Si paga una multa di 1.000 euro, più o meno 1.000 euro a provincia, e non so, così. C'era magari delle multe di 100.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro, magari 10.000 euro, 1.000 euro, e tutto condonato. I partiti si fanno il condono per i manifesti abusivi. Pagina 6 del Giornale, un'intera pagina, ma anche il Fatto Quotidiano, pagina 9. Manifesti abusivi, le 1.001 proroghe. Allora sul Giornale Emanuela Fontana racconta: dovevano cambiare i tempi, governo tecnico, misure di rigore, invece dietro l'angolo dell'anno nuovo è in arrivo un bel condono. Il primo del governo Monti che salva i politici. Due relatori del PDL e del PD del decreto mille proroghe hanno inserito nel decreto un emendamento che prevede una sanatoria per gli abusi dei cartelloni pubblicitari dei politici. Tutti i reati commessi fino al 29 febbraio di quest'anno potranno essere sanati con un versamento di appena 1.000 euro, e non per cartellone abusivo, è 1.000 euro per ogni provincia dove è avvenuto l'abuso. Vabbè, noi abbiamo ieri chiamato, tra l'altro, anche i relatori, sono del PD l'onorevole Bressa, del PDL l'onorevole Alfano, non Alfano il segretario, c'è un Alfano omonimo, Gioacchino Alfano. Siamo riusciti a sentire solo l'onorevole Bressa, che dice: no, ma io ero relatore, ho firmato, ma in realtà ero contrario e sono contrario al condono. Ovviamente poi c'è sempre il mistero di chi abbia firmato questo emendamento. L'anno scorso li abbiamo scovati, me lo ricordo, ci abbiamo messo giorni e giorni, perché tutti negano. Poi alla fine dicono: sì, ho messo io la firma, ma perché me l'ha chiesto il partito. Insomma, fanno quelli che sono stati mandati avanti per firmare. A firmare, ma in realtà è una prassi consolidata. Chi protesta sono i radicali, che tutti gli anni dicono: anche quest'anno è uno scempio, noi rispettiamo le regole, noi non abbiamo messo un manifesto. Anche l'Italia dei Valori, l'onorevole Antonio Borghesi dice: è una vergogna, Monti blocchi questo scempio. Non sarà bloccato nulla, ecco, vi tranquillizzo cari italiani, passerà in cavalleria questo emendamento. Non so, mi verrebbe da fare un invito provocatorio: cari italiani che lavorate magari nel settore pubblicità, svegliatevi, uscite e imbrattate tutte le città con bei manifesti dove vi pare e dove vi piace. Fatelo e poi andiamo a vedere, facciamo una bella scommessa se vi arriva un bel condono per le multe che giustamente vi arriveranno. Provate a farlo, imbrattate le città, mettete manifesti dove vi capita questa mattina, avete un volantino, pam, lo attaccate lì dove volete e poi sperate in un bel condono. Visto che ho citato il Fatto Quotidiano, oggi il Fatto con Luca Telese a pagina 4 è andato a seguire Beppe Grillo alla presentazione di un libro, il suo libro per la verità, Siamo in guerra, scritto per Chiare Lettere. Luca Telese a pagina 4 del Fatto ne ha un po' per tutti, no? Beppe Grillo che rifiuta interviste. Io sono uno che urla, non so fare interviste, così ha detto Beppe Grillo. Tra l'altro a un certo punto, inseguito da tutti, c'era Enrico Lucci, anche il mio mito della Iena, delle Iene. Enrico Lucci l'ha inseguito, allora Beppe Grillo si è dovuto rifugiare in un magazzino, racconta Luca Telese, nel magazzino delle rese della libreria, non riesce quindi neanche a firmare le copie. Le perle di Beppe Grillo sono queste: siamo nelle mani di un banchiere tedesco, questo sarebbe Monti, questo è un governo di mummie, di vecchioni che applica le ricette sbagliate. E poi sui politici, non è vero che sono tutti uguali, io per esempio ne ho conosciuto anche di onesti, per bene, uno. E ancora Beppe Grillo, la nave Costa è una metafora perfetta, italiana di bandiera ma americana di proprietà, esattamente come l'Italia. E ancora, il rating è una truffa dei burocrati chiusi in un palazzo di New York che ci declassano? Alla loro tripla B vorrei opporre la tripla V del colossale vaffanculo che si meritano. Ecco, queste alcune delle perle di Beppe Grillo raccontate oggi dal Fatto Quotidiano a pagina 4. Lui che aveva salutato con favore il governo dei tecnici, fa notare Luca Telese sul Fatto, oggi dice un governo di mummie, di vecchioni, non nel senso del cantautore, un governo che applica le ricette sbagliate. Siamo nelle mani di un banchiere tedesco, questo è il titolo. Allora, il tema principe è quello delle liberalizzazioni con il decreto che promette di cambiare tutto o di rivoluzionare mezza Italia. Forse si sta esagerando, basterebbe iniziare dai piccoli passi, almeno qualcosa. E da qui, certo, riparteremo tra pochi minuti dopo le informazioni su il meteo e la pubblicità. 24 mattino. Allora, alle 7:33 minuti gettiamoci e tuffiamoci nella lettura del tema liberalizzazioni, perché domani c'è il Consiglio dei Ministri, è pronto il decreto sulle liberalizzazioni, su questo si concentra con molte pagine, molti dettagli sulle 24 ore di oggi. Che cosa sono le cose più importanti? La separazione proprietaria tra Snam, Rete Gas ed Eni entro 6 mesi. Addio alle tariffe dei professionisti. Conti corrente base, bancomat meno cari, interventi sull'RC auto, sconti e orari liberi in farmacia, più libero il pacchetto benzina, pedaggi autostradali con price cap. Spunta anche una norma per i pagamenti della pubblica amministrazione entro 60 giorni, questo sarebbe davvero un miracolo, San Monti bisognerebbe farlo. Vengono invece a saltare i saldi liberi cosiddetti. Allora, tutti i dettagli. Beh, intanto la questione appunto energetica. A pagina 5 il Sole 24 Ore, Carmine Fotina, Rete Gas separata, RC Auto meno cara. Intanto un resoconto più dettagliato di tutti quelli che sono i punti che ho letto solo dal titolo di apertura del Sole 24 Ore, ma insomma si prevede in queste liberalizzazioni cosiddette una via libera alla separazione appunto proprietaria della Rete Gas Snam dall'Eni, una stretta sulle tariffe RCA, lo stralcio del divieto di monomandato, una parziale marcia indietro sulla rete dei carburanti e sul commercio. Per esempio sulla vicenda rete della Rete Gas, che era, per la quale c'era stato un appello di molti a dire iniziate da lì per fare le cosiddette liberalizzazioni, spicca proprio questa separazione proprietaria della Rete Gas da Eni, che scatterà con un decreto da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto che dovrebbe essere approvato domani. I dettagli poi sono raccontati a pagina 6 da Federico Rendina, divorzio in vista Eni Snam. Se funzionerà sarà la rivoluzione del gas all'interno di una semi-rivoluzione energetica, scrive Rendina. Eni dovrà separarsi, sembra definitivamente deciso, da Snam Rete Gas e forse dall'intera Snam in nome di una vera liberalizzazione concorrenziale in grado anche per il sempre più egemone metano di far abbassare i prezzi a livelli europei. Tanto per garantire subito un anticipo del beneficio, intanto cambieranno i parametri con i quali l'Authority per l'Energia ridefinisce ogni 3 mesi le tariffe di maggior tutela del gas, quelle riservate a famiglie e imprese di minori dimensioni che ancora non hanno deciso di cambiare il vecchio contratto con l'ex monopolista per approdare al mercato libero. E beh, ma certo, questo via allo scorporo della rete gas dall'Eni e anche questo nuovo meccanismo per le bollette è uno dei punti più interessanti, insieme a quelli di benzina, trasporti, assicurazioni. E poi c'è le professioni. Il punto più importante delle professioni è quello legato alle tariffe. Maria Carla De Cesari ne parla a pagina 10 e ne scrive del Sole 24 Ore. Il titolo è Tariffe, partita ancora aperta. Dunque nel titolo in realtà si fa adombrare il fatto che non è ancora tutto deciso. Verso l'abolizione si va, ma la decisione arriverà direttamente in Consiglio dei Ministri. Cancellate, abrogate, per dirla con un termine tecnico, le tariffe. Così inizia l'articolo di Maria Carla De Cesari. Preventivo scritto obbligatorio circa il costo delle prestazioni. Tirocinio non più lungo di 18 mesi gestito dalle università, effettuato durante il corso di laurea magistrale. Ecco cosa prevede la bozza del decreto legge sulle liberalizzazioni circolata ieri pomeriggio. Una bozza che conferma le misure della prima stesura volute dal sottosegretario Catricalà. Il testo, che verrà sottoposto domani all'approvazione dei ministri, mantiene le misure più spinte della strategia di liberalizzazione. Sarà però il Consiglio dei Ministri a decidere sulle tariffe. In modo aperto verranno esaminate le ragioni per l'abrogazione completa e quelle che consigliano invece la conferma come parametro per il giudice e per la pubblica amministrazione. Vedremo, insomma. Certo, sono le 24 ore decisive, tanto che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina un timore, che è questo: disordine pubblico. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Il Viminale, vale a dire il Ministero dell'Interno, è in allarme. Dopo la rivolta dei tassisti e i forconi che bloccano i tiri in Sicilia, e ricordo che alle 8:20 avremo uno dei responsabili, uno dei leader di questo movimento dei forconi, domani col decreto liberalizzazione si rischia una reazione a catena con proteste in tutta Italia. Così dice il Fatto Quotidiano, questo è il timore. E certo, tutti guardano intanto la categoria dei tassisti. Ancora per il secondo giorno Milano, io almeno dico per Milano, era deserta, praticamente non si vedeva questa mattina un'auto bianca. La protesta dei taxi, prefetti pronti alla precettazione, così titola pagina 3 il Corriere della Sera. I sindaci di Genova e Roma sono i sindaci più vicini agli autisti. A Genova Marta Vincenzi e gli autisti pubblici, gli autisti dei taxi. A Genova Marta Vincenzi è andata dagli 800 tassisti fermi in piazza De Ferrari. Ha detto: il governo pensi ai problemi veri come il lavoro, i trasporti pubblici. Non abbiamo bisogno di conflittualità. De Magistris invece a Napoli ha giudicato inopportune le liberalizzazioni in un momento di crisi, mentre Roma, si sa, è abbastanza vicina anche politicamente. Molti leader dei tassisti sono vicini politicamente al sindaco Alemanno. Certo, taxi, il giorno della verità, anche per la stampa, si titola a pagina 5, perché l'incontro, il secondo incontro con il governo è stato spostato questa mattina. C'è anche un resoconto molto interessante di Mattia Feltri sulla stampa, dal titolo La paura di chi lavora, se ci beccano ci menano. Ieri, ricordate, no, uno dei leader dei tassisti di Roma, Marinelli, avvicinato dai suoi che gli hanno detto: c'è gente che lavora, Pietro, sfondateli. Questa è stata la risposta, almeno secondo il Corriere della Sera, del leader UGL Marinelli. Beh, Mattia Feltri, ecco la botta di fortuna. Un tassista sta entrando in macchina, largo Chigi, a 2 passi da Casamonti. Senta, è un'emergenza. Siamo in assemblea, non si lavora. Le ho detto che è un'emergenza, un'urgenza. Mi faccia la cortesia, sono disperato. Mi guarda perplesso. Mi deve portare all'ospedale, hanno appena ricoverato mio fratello. È la balla del cronista che sta per andare a segno. Ma come si fa? Dice il tassista. Se ci vedono, ci menano. Ma chi vuole che ci veda, dai? Ci sono colleghi dappertutto, controllano i parcheggi. Senta, facciamo così. Io, guardi, la porto, però lei salga davanti. Se mi ci fermano, lei è mio cugino. E guardi, non accendo il tassametro, mi raccomando, sa, ne va della nostra incolumità. Così inizia il resoconto di Mattia Feltri, che poi sale a bordo, riesce a convincere, scambia qualche parola con questo tassista, i motivi della protesta sono soliti, ma poi dice, ecco, a Roma, quando c'è stata 2 giorni fa quella contestazione, c'era un'assemblea, poi sono arrivati i colleghi di Napoli, sono arrivati carichi incazzati, hanno sobillato i più focosi, scontenti di noi, li hanno minacciati, qualcuno che voleva lavorare li ha mandati al diavolo e questi li hanno presi a calci, il taxi gliel'hanno riempito di bozzi. D'altronde, dicono molti, sarà, se ci precettano, il casino. Ecco, questo per esempio sul fronte dei tassisti, certo è un fronte molto caldo e già si vede qualcosa, staremo a vedere. E così come certamente è caldo quello che sta succedendo in Sicilia con il movimento dei forconi. Ho legato alle cosiddette liberalizzazioni, c'è anche tutto il tema del mercato del lavoro. Oggi Repubblica titola su questo e fa 2 pagine interne, 2-3, dal titolo Lavoro, ecco il piano Fornero. Secondo Repubblica, gli incontri tra il ministro Fornero e i leader sindacali, che continueranno anche la prossima settimana, hanno già partorito un'ipotesi che sarebbe questa. Arriva il contratto unico, posto garantito dopo 3 anni, più soldi se lavori a termine. Ecco la riforma tutta dettagliata, almeno nelle ipotesi da Repubblica, sul welfare, per quel che riguarda gli incontri che sono in arrivo. L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non verrebbe toccato direttamente dalla riforma, ma ne verrebbe limitata l'efficacia in alcune fasi della vita lavorativa dei dipendenti. Il contratto unico si prevede questo. L'idea è quella di sostituire con un unico contratto gli attuali 48 censiti dall'Istat e la frammentazione che penalizza soprattutto donne e giovani. Nascerà per questo il CUI, contratto unico di ingresso. Avrà 2 fasi, una di ingresso che potrà durare a seconda dei tipi di lavoro fino a 3 anni e una seconda fase di stabilità in cui il lavoratore godrà di tutte le tutele che oggi sono riservate ai contratti a tempo indeterminato. Durante la fase di ingresso, invece, in caso di licenziamento con motivazioni che non siano di tipo disciplinare, il datore di lavoro non avrà l'obbligo di reintegrare il dipendente, ma potrà risarcirlo pagando una specie di penale pari alla paga di 5 giorni lavorativi per ogni mese lavorato. In caso di una fase di ingresso di 3 anni, il licenziamento dovrà essere risarcito con 6 mesi di mensilità. Questa sarebbe la bozza, il punto principale di questo CUI, di questo contratto unico d'ingresso. Il giornale attacca, cambiano tutto, ma l'articolo 18 rimane un tabù. Sta di fatto che effettivamente a leggere le bozze, cioè, sembra una mezza rivoluzione. Per esempio anche la questione delle frequenze TV, che dovevano essere assegnate con questo beauty contest, con un concorso di bellezza, no? Di fatto, cioè non con una gara, ma che vengano assegnate a quelle società, a quelle aziende che mostrano una maggiore garanzia anche di solidità nel settore. Ebbene, anche questo pare sia la volontà del ministro Passera, salterà definitivamente. Frequenze TV, la mossa del governo, l'assegnazione gratuita è verso il congelamento. È una mia intenzione, riporta il Corriere della Sera, pagina 6, rendere partecipe il Consiglio dei Ministri convocato il 20 gennaio sulle decisioni che propongo di assumere in materia di frequenze TV. Questa è la versione di Corrado Passera e dunque tutto lascia presagire che si andrà al congelamento di questo beauty contest, forse già domani. L'unica cosa che è saltata è appunto la questione saldi liberi tutto l'anno, c'è la possibilità di fare i saldi tutto l'anno. Staremo però a vedere. Intanto, dopo le informazioni sul traffico, ci ributteremo sulla questione, un'altra questione che tiene ancora molto banco sui giornali, quella del comandante Schettino, la tragedia della Costa Concordia. Non salirò mai più su una nave. Così avrebbe detto, e il quotidiano nazionale ci ironizza dicendo, finalmente una bella notizia. È quello che avrebbe detto il comandante Schettino da ieri agli arresti domiciliari a Meta di Sorrento. Noi avremo il sindaco di Meta di Sorrento alle 8.30, nostro ospite, un paese che tra l'altro si sta stringendo con una, io devo dire, anche comprensibile solidarietà. Ma adesso non è, ci sarà un processo, avrà fatto tutti gli errori del caso, si sarà comportato nella maniera più sbagliata possibile, questo lo accerteranno i magistrati. Ma adesso anch'io identificare in Francesco Schettino il male assoluto dell'Italia, sinceramente devo dire, mi sembra troppo. In ogni caso, io non salirò mai più su una nave, questo avrebbe detto appunto ai suoi concittadini a Meta di Sorrento Francesco Schettino. Anche la stampa fa un'intera pagina con inviata Maria Corbi, per la verità tutti i giornali hanno inviati a Meta, tanto che qualcuno lì a Meta dice siamo diventati la Avetrana d'Italia, adesso per qualche giorno ci massacreranno tutti qui. E la stampa: Franco torna a casa, sono un uomo finito. Anche questo avrebbe detto ai pochi che sono riusciti a sentirlo lì nel paese. Sono frasi smozzicate, poche dichiarazioni. Il parroco che dice l'hanno già crocifisso. Pare che lo stesso Schettino abbia detto sono comunque un bravo comandante, sono vittima dei miei pensieri, in quel momento ero distratto e lo scoglio mi ha colto di sorpresa. Questo anche avrebbe detto. E poi, come in tutti i gialli che si rispettino, ora spunta quella che è stata definita dai giornali già la femme fatale, una donna. Il giallo della donna sulla plancia di comando. Il titolo della stampa con Paolo Colonnello, uno degli inviati a Grosseto, a pagina 10, è una moldava di 25 anni che si è resa irrintracciabile, che sarebbe stata a bordo ma non registrata e che forse era in plancia di comando, cioè è stata portata dal comandante Schettino in plancia di comando al momento dell'impatto. Il secolo XIX punta molto su questo. Pagina 3, cena e brindisi con la bionda, poi la folle bravata. L'articolo di Paolo Crecchi, c'è anche una foto. La foto, eccola qui, l'ospite del comandante Schettino fotografata da un passeggero alle 21.45. Succede questo, che la denuncia viene fatta da due passeggeri della Costa, Angelo Fabri ed Eleonora Rossi, passeggeri che alla vigilia dello sbarco decidono di concedersi una cena al Club Costa a bordo della nave. Arrivano 5 minuti di ritardo e allora il loro tavolo è stato già assegnato. A chi? Al comandante. Al comandante, che denunciano loro è seduto con una bella signora bionda dall'accento straniero, russo, moldavo, rumeno, ovviamente non sono molto avvezzi, non capiscono, e un altro ufficiale della nave. Angelo Fabri ci rimane male, ma ovviamente abbozza. E del resto anche il cameriere è imbarazzatissimo, mica si può fare alzare il comandante della nave per fare sedere la persona, un passeggero che aveva prenotato il tavolo. E allora i due passeggeri si accomodano a un tavolo vicino, ma fanno delle foto, e ci sono quindi le foto della donna che era con il comandante. E poi raccontano anche il menù: spaghetti al sugo di pomodorini, origano, sparagi, tagliata di pesce su tagliatelle verdi con capesante e gamberi, e soprattutto raccontano anche vino, diversi bicchieri di vino rosso. Dura la cena mezz'ora, poi il comandante si allontana poco prima dell'impatto alle 21.05, quindi 40 minuti prima della collisione, e si allontana, e questo porta questa donna in plancia di comando per fare vedere, cosa che peraltro si può fare, legittima, ci sono delle possibilità di portare durante delle manovre anche degli ospiti da parte dei comandanti per far vedere, insomma, come si fanno le manovre. E vabbè, insomma, questo è il nuovo giallo, come il nuovo giallo è anche ora le indagini che si concentrano sulle telefonate che sono intercorse tra il comandante Schettino e i rappresentanti, un rappresentante in particolare che gestisce tutte le situazioni di emergenza della costa e quindi con l'armatore, ovviamente, che cosa ci sia stato, cosa si siano scambiati di parole, di pareri in questa ora di telefonate, non si può sapere. Comunque il giornale punta su questo, nel mirino dei PM le telefonate con la costa. Io però voglio chiudere con una notizia di cronaca che mi ha molto colpito. La notizia di cronaca è quella legata alle immagini che provengono da questo ospizio, una casa di riposo di Sanremo, dove la Guardia di Finanza ha pizzicato, ha messo delle telecamere, ha visto le violenze quotidiane, brutali, di infermieri, di addetti alla casa di riposo che legavano, picchiavano in maniera selvaggia e umiliavano le persone che dovevano invece curare. Anziani seviziati, 7 arresti, così titola La Stampa, l'ospizio degli orrori e delle torture è a pagina 10 del Secolo XIX, e vi vorrei concludere invitandovi alla lettura dell'editoriale che Ferdinando Camon, intellettuale, scrittore, dedica a questo tema in prima pagina della Stampa. Il titolo è Le prede più facili. Pare un incontro di pugilato, scrive Camon, all'ultimo round, quando un pugile sta per crollare, l'altro gli dà i colpi di grazia. Qui a ricevere i pugni, gli urtoni, le sberle, una donna anziana, non autosufficiente. Il petto e la testa le cadono continuamente in avanti e davanti a lei sta un'infermiera col camice bianco. Tu pensi, adesso l'infermiera la sorregge, l'aiuta, la sistema, la imbocca. E invece no, ogni volta che la testa della vecchietta cade giù sul petto, l'infermiera gliela ributta indietro con un cazzotto, a volte con una sberla. Siamo in Italia, Sanremo, casa di riposo. Cose del genere non dovrebbero mai accadere, non in Italia, non in una casa di riposo, non a danno dei vecchi, non sui disabili, non autosufficienti, non ad opera del personale che lavora lì e che per questo lavoro viene pagato. Non c'è un reato in questo comportamento, ce ne sono 4 o 5, nessun codice li abbraccia tutti quanti. Quale che sia la pena, sarà inadeguata la colpa. Le riprese sono stupende, limpide, crudeli, chiare. E queste persone fanno liberamente quello che voglio, picchiano, bastonano, insultano, si credono non viste, e così noi, parenti delle vittime, carabinieri, semplici cittadini, li vediamo nella loro vera, segreta attività quotidiana. In una casa di riposo noi pensiamo che ci vada personale preparato, adeguato, che non prova schifo o ripulsa per chi ha bisogno del loro aiuto. Noi portiamo in casa di riposo i nostri vecchi, pensando che l'istituto diventa il nostro continuatore, si occupa dei vecchi con la stessa affettuosità che avremmo noi, in più ci mette una competenza che noi non abbiamo. Questo crediamo. Separarci dai nostri vecchi ci costa. Lo sentiamo come una specie di tradimento, ci han tenuti con sé finché ce l'han fatta e ora che non ce la fanno più ce ne sbarazziamo. Ma questo succede. Ma conclude Camon, fossero morti due bambini, come era successo di recente in un ospizio, scoppiava il finimondo. Ma i bambini sono preziosi, mentre i vecchi non hanno nessuna importanza. Le prede più facili, questo è il titolo, vi invito alla lettura sulla Stampa di questa vicenda terribile. Giornale Radio.